Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Buonasera a tutti, buon sabato sera qui da Radio Wombat, dalla puntata speciale estiva di Tonight Alive. Vi avevo promesso che non vi avremmo lasciati soli per quest'estate, per questo inizio d'estate, nonostante la calura, anzi neanche, ormai neanche più tanto inizio, siamo... Ormai è finito. Cioè, toccando sì, a lavorare. Nella mia ottica, sì, ormai siamo già a ottobre, però non lo possiamo dire così. Tra un po' nevica. A cuor leggero ai nostri ascoltatori, se no poi non mi ascoltano più, o addirittura peggio, se mi incontrano per la strada mi sputano in faccia. Ognuno deve avere la sua stagione. Ma noi abbiamo dato un consiglio: sbrigatevi ad andare al mare, perché qua mo stiamo già a fine. Ci siamo. E appunto non vi volevamo lasciare da soli in questa calura, e quindi abbiamo preparato qualcosa per allietare la vostra estate con questa con questa serie di, se, diciamo, serie di speciali. Intanto è uno, si parte con questo, e poi se, se avrà successo vedremo, continueremo. Però appunto, specialità di quest'estate per Tonight Alive, ci faremo qui insieme al mio fianco a Ginox, che è venuto con la sua street credibility a darmi supporto per queste puntate speciali. Sì, infatti io non so niente, io ci metto solo la street credibility. Basta. Ti sembra poco? No, no. Sai quanti anni ci vuole per crearsi una street credibility? Io ci lavoro da quando avevo 5 anni. Appunto, quindi come facevo a non invitarlo per darmi man forte appunto su questa retrospettiva di questa etichetta storica, famosissima, specialmente in un certo ambito musicale. Stiamo parlando della Philadelphia International. Oh. Etichetta assolutamente di culto per un sacco di generi musicali, per il rhythm and blues. Hanno spaziato praticamente tra tutta la musica, per il soul, diciamo, per nera, il funk, per la disco. Hanno la Philadelphia International, ha messo mano e ha fatto il suo marchio di fabbrica su un sacco di generi musicali diversi, ma appunto partendo dal soul tipico di Philadelphia, dal quello che poi appunto attraverso gli anni poi è diventato il famoso Philly Sound. Infatti abbiamo la sigla d'apertura, era The Sound of Philadelphia, della band di casa, delle MFSB, insieme a un altro gruppo della Philadelphia International, i Three Degrees, il terzo grado, e questa appunto non poteva altro che essere la sigla, ovvero The Sound of Philadelphia, giusto per darvi un po' le coordinate. L'acronimo che significa? Di MFSB. Abbiamo avuto un dibattito prima. Allora, ci sono due scuole di pensiero. La scuola di pensiero, quella ufficiale, è che l'acronimo di MFSB sia Mother, Father, Sister and Brother, ma qui la versione da strada invece è Motherfucker, Son of a Bitch, che può sembrare molto cruento, ma era un modo per dire: cazzo fratello, che hai fatto un pezzo, ha spaccato che spacca, il culo. Sì. E infatti, quindi secondo me la vera verità è che l'acronimo, quello, il primo, è quello vero, e l'altro è quello che si è aggiunto dopo. Cioè dopo un po' hanno iniziato a dire, però certo non è, torna. Però penso che l'origine del nome fosse quella, che si riferiva un po' al fatto che appunto questa etichetta si inseriva in quel particolare periodo storico dove c'era appunto questo diffuso senso nella comunità di colore, diciamo di sorellanza e fratellanza, e si parlavano di quello sostanzialmente. Anche perché, giusto per darvi un paio di coordinate temporali, la Philadelphia International è stata fondata nel 1971 appunto dai due autori nonché produttori e deus ex machina dell'etichetta, Kenneth Gamble e Leon Huff, due figure leggendarie direi all'interno della produzione da studio. Poi hanno fatto veramente pellegrinaggio per andare i vari gruppi, per andare a suonare negli studi di Gamble and Huff a Philadelphia. Infatti poi vedremo tutti i grandi nomi che sono passati attraverso questo studio di Philadelphia. Però appunto, per dare un'impostazione più leggera a questa Summer Edition di Tonight Alive, partiamo subito con il primo pezzo, un altro gruppone, uno dei gruppi principali della Philadelphia International. Sto parlando di Harold Melvin and the Blue Notes, e adesso ci andremo ad ascoltare The Love I Lost. Tonight Alive, Philadelphia International. Thank you. That kind of meant the world to you. questi erano Harold Melvin and the Blue Notes, uno dei gruppi di punta appunto della Philadelphia International, anche giusto per farvi capire ancora di più quello che connota il Philly Sound, quello che poi sarebbe stato universalmente riconosciuto come Philly Sound, questo basso grasso, bello rotolante, bello presente, questi accompagnamenti orchestrali molto in primo piano, questi fiati e questi archi che poi hanno connotato un suono intero. È una cosa che mi ero scordato di dirvi prima della sigla, che appunto non era stata scelta a caso, ma appunto quel The Sound of Philadelphia poi diventerà nel 74, se non mi sbaglio. Non mi ricordo quando inizia. Credo 74, la sigla di un programma televisivo famosissimo in America che è stato Love Train. Soul Train. Love Train è un pezzo di George Hayes che mettiamo dopo. Sì, no. Soul Train, sì. Freudiano, infatti. il programma, tra l'altro, è la fonte di ispirazione praticamente di tutti gli stili di ballo moderni che si riferiscono a quel periodo. Cioè, tu guardando Soul Train aveva questa caratteristica di fare questa specie di intro dove il pubblico veniva, esatto, e si esibiva in una specie di carrellata, sì, con tutti ai lati e due alla volta o anche uno solo facevano una specie di passerella, sì, di una ventina, trentina di metri ballando il pezzo di apertura, che poi erano tutti questi pezzi qua, cioè ne sorpassavano tutte le... Che poi è lo stesso principio che è rimasto nella break, nell'esibizione break. La break l'ha iniziato a farlo poi in cerchio, però comunque l'idea era abbastanza simile, e gli stili infatti si vede, se vi cercate i video di Soul Train, ritrovate, che ne so, il locking, il voguing, il popping, anche accenni di quello che poi il breaking, breaking a terra, un po', cioè tutto questo stile di ballo trova un po' origine lì, poi negli anni in realtà è andato quasi un po' codificandosi, è un po' cambiato, però è tutto lì. Cioè sì, lì sì, c'è già praticamente tutto quello che poi è diventato il breaking, tutta la cultura di ballo riferita a quel tipo di musica. Quel tipo di musica, infatti farà scuola questo Soul Train. Sì, dal punto di vista proprio musicale, di immaginario, eccetera, di ballo, senz'altro. Anche perché sì, era proprio un'esibizione dei... Oltre ai brani e quindi i gruppi e i musicisti che andavano a suonare lì dal vivo, una parte fondamentale era rappresentata appunto dai ballerini, e i ballerini non erano ballerini professionisti, ma erano... No, era la gente che ballava gente, nei locali, esatto, in giro. Allora quindi non c'era ancora tantissimo... Un concetto ancora molto quello popolare. Quello poi che caratterizza poi il breaking, cioè il ballo in strada... In quel periodo là era ancora il ballo nei locali, anche perché sì, era il periodo in cui si passava da funky alla disco music, quindi il protagonista comunque era il locale, no? Sì. Infatti sì, un gruppo che noi non si mette oggi, ma mettiamo magari le prossime volte, i Tramps, cioè sono poi finiti nella sonora della febbre del sabato, certo, sera, c'è la famosissima disco Inferno, sì, no, anche cioè tutti questi pezzi qua che caratterizzano proprio quel periodo ballereccio, diciamo. Anche perché poi appunto la Philadelphia International ha avuto un periodo d'attività più o meno di una quindicina proprio gli anni d'oro, si possono dire che sono una quindicina di anni, che vanno dall'inizio degli anni 70 alla metà degli anni 80, anche se poi appunto ha continuato a far uscire album e uscire singoli, ma diciamo il periodo d'oro è più o meno intorno a quella quindicina di anni lì, e appunto ha attraversato partiti dal soul e dal rhythm and blues proprio tipici di quella zona di Filadelfia, poi sono riusciti a cavalcare appunto i generi musicali che stavano emergendo, il funk, la disco, poi incrociandoli appunto disco funk, disco soul, funky disco, tutte certo. le varie combinazioni che vogliamo trovare. E allora, come prossimo gruppo, andrei a mettere un altro pezzo da 90 del Philly Sound, un altro gruppo storico di quegli anni, gli OJs. Anche perché li abbiamo citati prima proprio con questo pezzo, involontariamente. Ora tocca poi metterli. Avevo già scoperto le carte, lo devo mettere per forza, e questo è uno dei loro pezzi, uno dei loro maggiori successi, proprio anche di vendita, perché oltre a essere un certo tipo, cioè, di musica, ma proprio a livello di caratura, sono anche diventati dei grandi successi commerciali, cioè sia il lato artistico che quello commerciale, diciamo, hanno trovato un punto di connessione, secondo me, nella Philadelphia International, e questi sono gli OJs con Love Train. Tonight Alive, Radio Wombat. Chissà quante volte l'avrete ascoltato questo pezzo. Ma tutti i pezzi che mettiamo oggi sono famosissimi, sì, in sì, realtà. Sì, oggi siamo proprio andati sul sicuro, anche perché appunto la storia della Philadelphia International è costellata di classici rimasti. Sì, che probabilmente avete ascoltato anche a casa, cioè sì, nei film, alle pubblicità, sì, cioè sì. L'hanno ripreso praticamente tutto, quindi anche se non li non li riferite a un gruppo, a quel tipo di sound, probabilmente li avete già sentiti. E in realtà questi due pezzi, anche il prossimo che mettiamo, sono praticamente le due grosse hit che hanno fatto degli OJs, che poi tra l'altro sono, gli OJs erano partiti come classico gruppo vocale doo-wop di fine anni 50, un classico terzetto solo vocale di voci nere, appunto alla fine degli anni 50, e poi appunto sono entrati dopo una decina d'anni di gavetta sotto l'ala protettrice e sotto la guida di appunto dei due mentori della Philadelphia International, Kenneth Gamble e Leon Huff, che gli hanno dato questa impostazione molto orchestrale sotto, e poi è venuto fuori quello che è venuto fuori. Però fondamentalmente, appunto, per fare un inizio, una concatenazione, una partenza dal passato della musica nera, loro erano partiti dal più classico del doo-wop. Molti gruppi, moltissimi gruppi, anche perché poi il doo-wop, siccome tantissimi cantanti del neri iniziavano a cantare nelle chiese, quindi iniziavano a cantare gospel, il doo-wop possiamo quasi dire che è un'evoluzione secolare di questa musica spirituale. Sì, è la versione laica. Esatto. E anche danzereccia, divertente. Più danzereccia e anche sì, più moderna, perché sì, sì, vabbè, è chiaro. E andiamoci ad ascoltare quest'altro grande successo allora degli OJs, giusto per fare la doppietta con gli OJs, e questo è l'altro loro grandissimo successo, ed è Backstabbers, Accoltellamenti alle spalle, qui su Radio Wombat. Take E questo singolo sicuramente molto più legato al versante soul, puramente soul di Philadelphia. Io lo ballavo uguale. Certo, vabbè. Perché è bellissimo. Perché è bellissimo. Cioè, no, il groove c'è sempre, però questo è proprio soul classico. Sì, questo è un classicone soul classico degli anni 60, struggente. Molto legato, direi, coltellata all'animo. Molto più legato magari al versante Motown. Vabbè, comunque erano le scuole che era lo standard sì. Black di tutti gli anni 60 e anche direi per buona parte degli anni 70, sì. era quello. Il Motown e Stax hanno fatto scuola, e poi appunto è arrivata la Philadelphia International a portare il third stream, la terza via alla musica black, ma se no gli standard del periodo erano Motown e Stax. Il suono era quello del soul e della musica nera e del rhythm and blues. E a proposito di rhythm and blues, anche la Philadelphia International non si era fatta sfuggire di esplorare anche ovviamente questo importante versante della musica black, e appunto andiamo a incontrare un altro pezzo di grandissimo successo della Philadelphia International, questo già parecchio più recente relativamente, infatti un pezzo del 1979, ed è la versione di McFadden e Whitehead di Ain't No Stopping Us Now, che questa è la versione originale. Poi negli anni 80 l'hanno anche coverizzata tanti abbastanza, però questa è la versione originale appunto del 1979, pezzo che ha avuto un grandissimo successo, è entrato dritto nelle sicuramente, non mi ricordo esattamente la posizione in classifica, ma sicuramente sicuramente nelle prime 10, non mi ricordo esattamente. Vabbè, ma noi che ci frega niente, tanto. Però è stato un grandissimo successo, e andiamoci a sentire appunto questa Ain't No Stopping Us Now di McFadden e Whitehead, sempre ovviamente su Tonight Alive. Us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down. We'll And if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act. E finisce così. Però eravamo ovviamente, c'eravamo distratti ovviamente, a guardare i passi di danza. Eravamo a ballare, a eravamo valutare a studiare i passi per di me danza. È uno studio di McFadden e Whitehead, ovviamente. Ricerca. Erano partiti dal rhythm and blues, ma questo era già. No, questo è disco. Questo era già, cioè, questo disco, è proprio disco totalmente. Disco. Sì, cioè, sì, c'è sì, il tipo, sì. Nel video agita anche la mano, sì, tipo sì, John Travolta. Già. Agita il braccino in aria indicando il cielo con il dito. Giacche, camicia con collina midato, cioè. Sì, erano uguali a John Travolta, esatto, nella febbre, nella febbre, sabato febbre di sabato sera. Esatto. Però il periodo era quello, sì. Coriste, infatti, classico della disco. E loro però erano partiti dal rhythm and blues. Vabbè, ci piace anche la disco, vabbè. A me piace a bomba la disco proprio. Però gli avevamo promesso il rhythm and blues. La prossima volta, si cerca qualcosa che non sia del 79. Vabbè, no, possiamo trovare un sacco di cose. E il prossimo ritornerei a farvi sentire un altro grande successo della Philadelphia International con il secondo gruppo che vi abbiamo fatto sentire, ovvero Harold Melvin and the Blue Notes. E questo è un altro loro grandissimo successo, If You Don't Know Me By Now, altro disco che ha frequentato le posizioni alte della classifica di Billboard in America. Qui credo che siamo già, stiamo ritornando agli esordi dell'etichetta, torniamo indietro al 1972 e credo sia stato uno dei primi singoli della Philadelphia International a occupare i piani alti della classifica e a far affermare appunto l'etica e l'estetica dell'etichetta nelle classifiche americane ed internazionali. Wow, una chicca non da poco. E questa è If You Don't Know Me By Now di Harold Melvin and the Blue Notes. That we've been through, you should understand me like I understand you. Now baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. A little late at night, 'cause we only act like children when we argue fuss and fight. Hey, hey. If you don't know, if you don't know, our own funny moves. I've got mine, woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when we can't see eye to eye? Oh, if you don't, if you don't know me, baby, è uscito fuori proprio il nostro lato più romantico, direi. Proprio siamo passati dalla febbre del sabato sera e finita la serata. Capito? Questa pulizia, pulizia dei tavoli, si rimettono a posto le sedie, limonate dure. Sì, gli altri puliscono. Sì, e questo, cioè, questa è proprio da scopettone, mentre esatto, tutti si divertono. È proprio il lavorante che pulisce il locale. Io me la figuro così la scena. Un pezzo del 72 proprio ti dà le coordinate anche delle origini di questo suono, perché questo è puro soul al 100%, proprio lentone soul. Nello stile più classico, ancora non sentiamo quegli arrangiamenti che poi caratterizzeranno l'etichetta per tutta la sua storia, direi. E passiamo al prossimo pezzo, che è il pezzo di un altro grande artista dell'etichetta, che tra l'altro qui a Radio Wombat abbiamo già incrociato più volte le nostre trasmissioni con la sua magnifica voce. Un assiduo frequentatore della radio, ce l'abbiamo sempre qua, abbiamo esatto, anche dei problemi a mandarlo via, si è affezionato. Ma anche casualmente, perché mi ricordo appunto a Basement Records mi è capitato diversi 45 di Lou Rawls, che era molto famoso appunto all'inizio degli anni 70, anche lui cantante soul classico, lentoni e roba così, proprio classico soul, ma ha avuto una carriera lunghissima, anche decisamente mainstream, direi, perché se non mi ricordo male ha cantato anche, credo, più di una volta per il grande evento mediatico americano del Super Bowl. Quindi se vieni chiamato come cantante, che avrà cantato l'inno nazionale, che canta. Sì, no, quando ti chiamano al Super Bowl di solito sì, chiamano il grande artista a cantare l'inno nazionale, che è proprio, ti tocca. Va bene, ti tocca. Quindi sì, grandi artisti rovinati da queste cose. Credo che poi anche oggigiorno c'è addirittura proprio le esibizioni dei cantanti mainstream, credo facciano proprio anche proprio dei loro pezzi durante l'intervallo, ma il grande classico di venir chiamati a cantare al Super Bowl è, diciamo, per l'americano medio l'onore di cantare l'inno nazionale, appunto. Vedi, tutti tutti fermi con la mano sul cuore a cantare l'inno americano, oppure testa bassa e pugno chiuso. In America dipende. Esatto, dipende da che colore sei. Pugno chiuso bisogna vedere in che situazione. Parecchi pugni chiusi, ma mi sa più nelle gengive. E come si dice a Firenze, tra moccia e bava di qualche altro soggetto che ti si para davanti e non proprio... Pugno chiuso alzato al cielo e testa bassa come purtroppo come i grandi come successe appunto alle Olimpiadi quando in piena lotta dei diritti civili i due neri vinsero la, mi sembra era una gara di velocità, credo fossero i 100 metri e fecero appunto il famoso gesto, sì, con il guanto nero del pugno chiuso del che Black ha segnato Power. le vite penso di entrambi, perché dopo non gli hanno fatto fare più mai niente più. Ostracizzati, e tra l'altro sì. Sì, assolutamente, e tra l'altro lessi, mi capitò di leggere un articolo del terzo sul podio, che era appunto l'unico bianco, che essendo era il più sfigato di tutti lui, perché sì, lui anche lui proprio sì, essendo appunto d'accordo con quell'azione politica lì, anche se lui non aveva alzato il pugno, però essendo accondiscendente e come si dice solidale con questo atto di ribellione, di dimostrazione per la lotta dei diritti civili, subì lo stesso identico destino di... Forse un po' peggio, perché in realtà appunto loro come esponenti della comunità ce n'era, poi in realtà cose ne hanno fatte almeno, sì, riconosciuti da quella comunità. Sì, lui era passato in sordina e quindi sostanzialmente poi si è trovato un po' abbandonato da tutti, senza più nessuna comunità a sostenerlo. Almeno quegli altri, sì, erano neri, avevano ancora la comunità nera che li supportava dopo aver fatto, sì, questo. Sì, lui ha una storia interessante. L'avevamo raccontata all'Olimpiadi, questo gesto clamoroso di protesta, perché appunto portare una cosa del genere a quei tempi in un palcoscenico internazionale come le Olimpiadi, che non è che c'è come ora le mondovisioni e te, sì, prendere e guardarti un evento in Nuova Zelanda che sta succedendo così sul momento, cioè erano pochissimi gli eventi in mondovisione prima, sì, e appunto fare un gesto clamoroso per il periodo del genere in un panorama internazionale come quello che ti dà l'Olimpiadi, fu appunto un gesto rimasto nella storia. Proprio di lui, mi sa che ne avevamo parlato in una trasmissione di 3000 siepi, si era parlato proprio del terzo. Si era proprio parlato della vostra trasmissione. Del terzo, sì. Poi si è spenta la trasmissione, però abbiamo avuto il tempo almeno di raccontare questa storia. E vi siete fatti anche delle gran passeggiate. Sì, qualcuna, poi un po' di passeggiate. Un po' di passeggiate per le colline fiorentine. E allora adesso andiamoci a sentire Lou Rawls con You'll Never Find Another Love Like Mine. Radio Wombat, Tonight Alive. As long as you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. mine. It'll take the end of all time. Someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Someone who needs you like I do. You'll never see what you found in me. You'll keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby. E questo era Lou Rawls con You'll Never Find Another Love Like Mine. E anche questa famosa, direi decisamente famosa, molto, molto pop, molto mainstream, ma sì, sì, molto super orecchiabile. Super orecchiabile, però si riconosce sempre la struttura, insomma. Un lavoro fatto bene, anche se nel versante più pop e più mainstream della musica nera, sì, anche sì, perché sì. Appunto Lou Rawls era fondamentalmente un cantante pop, infatti, anche se proveniva dal soul, però. E adesso siamo arrivati al pezzaccio, al pezzo più politico. Sì, sicuramente. Probabilmente sì, quello riconosciuto come il più espressamente politico, direi della Philadelphia International, in questo caso interpretato dalla Philadelphia International All Star, perché erano un pool di musicisti. Esatto, praticamente un ensemble. All'interno della Philadelphia International è stata una collaborazione tra i vari musicisti che gravitavano intorno a questa etichetta. L'arrangiamento e la produzione, ovviamente, sempre curate dai due mentori, che non ci scordiamo mai di ricordarli, e sono ora l'ho ripersi. Comunque, se non ci scordiamo mai di ricordarli, per ricordarli a noi stessi. Per ricordarli a noi stessi, che sono Huff, insomma, Gamble and half, scusate, ma l'età, l'arteriosclerosi galoppa. No, ma ripetendolo in continuazione, secondo me lo memorizziamo. Sì, sì, prima o poi ce la posso fare. Come si dice qui a Firenze, sono un po' di coccio, ma alla fine poi ci arrivo anch'io a ricordarmi le cose. E appunto, questa Let's Clean Up the Ghetto è uno dei pezzi più politici, direi, della Philadelphia International. Tra l'altro, anche quello che si diceva prima, il basso grasso, sì. Cioè l'intro di basso di Let's Clean Up the Ghetto, dove poi entra la batteria, è una roba spettacolare. Sì, sì. Cioè è uno... Ma infatti è puro suono Philadelphia, sì. Puro Philly sound. E mi dicevi fuori onda... Di questi due episodi, ah sì, che secondo me presentano bene si può dire la genesi e un po' sì, e il periodo, cioè diciamo che costruiscono bene l'atmosfera del periodo, per cui si comprende poi diciamo un pezzo come Let's Clean Up the Ghetto, perché Philadelphia era una città che già negli anni 60 aveva una comunità di colore molto grossa, era praticamente una città nella città, perché erano 600.000 e vivevano tutti comunque in quartieri soltanto di neri, cioè non c'era nessun tipo di promiscuità territoriale, neanche, cioè non era proprio... Era come il Queens a New York o il Bronx. Era tipico di tutte le grosse metropoli americane, questo tipo di ghettizzazione. Watts a Los Angeles, sull'altro lato della... Infatti nel 1964, che è l'anno dei grandi riot per i diritti civili, e Philadelphia è sostanzialmente la città che non l'inizia, perché vanno un po' in parallelo, però è una delle città dove accadono questi riot, che nascono poi dagli episodi di discriminazione razziale violenta ad opera della polizia. Ma era ovvio che nascessero, cioè, in un posto dove, cioè, al luoghi che noi, magari per le dimensioni che hanno questi luoghi in America, noi non ce li immaginiamo nemmeno, diciamo, quartieri neri, ma sono quartieri che sono grandi come delle intere città europee, sì. Anche proprio a livello di popolazione. Quindi se tratti in una determinata maniera intere fette di popolazione come quelle, è chiaro che i focolai della rivolta nasceranno nei luoghi dove hai relegato tutte queste persone. Infatti nel 64 questa cosa nasce proprio, tra l'altro avevano fatto, siccome Philadelphia ha una lunga storia in realtà di scontri tra la popolazione di colore e la polizia, nel tentativo un po' di recuperare la situazione, non nel particolare di Philadelphia, ma era un tentativo nazionale, avevano iniziato a diciamo fare i corpi di polizia misti, per cui le ronde venivano fatte sempre da un agente di colore e un agente bianco. Nonostante questo, comunque le violenze da parte degli agenti bianchi, un film abbastanza interessante, quello di che è uscito, però parla di Detroit in realtà, sì, perché era presenta un po' appunto questa roba dove diciamo la gente nera aveva un compito più di tranquillizzante per la popolazione, certo. Ma in realtà, diciamo, totalmente l'approccio era quello razzista, quindi era sostanzialmente una roba per rendere accettabile una violenza istituzionalizzata, non serviva a niente, cioè non garantiva in alcun modo la comunità di colore si sarebbe sentito garantita da una roba del genere. Serviva soltanto da paravento e da specchietto per le allodole, per dire, in quel modo era tipo un messaggio della polizia: no, guardate, abbiamo anche polizia. Era un tentativo un po' disperato per non cambiare. Era uno specchietto, diciamo, per le allodole. Certo, per non risolvere un problema politico, ma provare a nascondere la polvere sotto il tappeto. Sì. E infatti i riot a Philadelphia partono proprio per sostanzialmente una coppia che stava discutendo in strada, sono stati fermati da una pattuglia mista. E poi in seguito entrambi arrestati in maniera brutale, abbastanza brutale, la voce si era diffusa, un sacco di gente si è ritrovata e da lì è partito questo riot di più di una settimana che sostanzialmente ha devastato il quartiere. E era tipico proprio di questo tipo di riot, anche era un po' anche... se si vuole non paradossale, però era difficilmente comprensibile e inquadrabile, perché comunque non c'era l'assalto al quartiere bianco, non è che andavano verso una city, cioè loro sfasciavano tutto lì. E quindi era un'esplosione di rabbia sostanzialmente, di dire: questo posto dove ci fate vivere fa schifo, non lo sentiamo nostro, sfasciamo tutto e saccheggiamo tutto, perché poi veniva saccheggiato. Infatti c'era tutto, anche poi tutta la questione diciamo dell'economia, che poi veniva per essere particolarmente depressivo per l'economia dei quartieri, perché veniva saccheggiato tutto. Non era sfasciare per sfasciare, sfasciare per saccheggiare, perché chiaramente delle persone povere messe di fronte a un al mercato e se pigliano tutto è chiaro. Era comunque paradossale, perché era la stessa comunità nera che poi andavi a saccheggiare, e lì appunto si innescano tutte le riflessioni successive sul senso di questi riot, che erano appunto difficilmente anche comprensibili e assimilabili a una qualche tipo di logica che non fosse proprio appunto la mera, ma messo in una situazione che fa talmente schifo che non rispondo più neanche a una razionalità. Cioè il problema è talmente diffuso che non si tratta di fare dei piccoli cambiamenti, che era proprio anche la questione dei diritti civili, per quello poi sono nate le Black Panther e i movimenti che comunque che erano più Nation of Islam, erano più rivoluzionari, perché comunque l'approccio riformista Black Muslim era assolutamente insufficiente rispetto alla gravità del problema, alla profondità del problema. L'altro episodio che volevo citare, a parte questo che era iniziale e che costruiva diciamo il clima iniziale dove nascevano queste cose, è un episodio che invece è avvenuto già in un periodo di relativo down del movimento, già nella diciamo, fase riganiana, direi. Sì, perché era Reagan. Penso di sì, perché era 1985, metà degli anni in cui 80, sostanzialmente a Filadelfia una palazzina intera occupata da famiglie che erano in qualche modo legate a dei movimenti che la stampa definiva pro-black, quindi erano probabilmente rimasugli di Black Panthers o movimenti simili, viene letteralmente bombardata da degli elicotteri. Prende della polizia, non bombardata, una specie in senso di assedio, non in senso metaforico. Evidentemente hanno usato in qualche modo delle granate incendiarie, o comunque che dovevano essere magari deterrenti, ma che hanno fatto prendere fuoco all'edificio. In quell'edificio vengono sostanzialmente assassinate poi 11 persone. Le famiglie e anche i bambini, cinque bambini. Donne e bambini. Sì. E questo uccisi. È un episodio in gran parte rimosso in realtà dalla storia americana. E come diversi episodi. Sì, come tanti. È una cosa che non gli torna questo. No, le cose che tendono poi a nascondere la polvere sotto al tappeto. E questo diciamo segna un po' il periodo. Cioè il pezzo che andiamo a ascoltare ora, infatti, si intitola Let's Clean Up the Ghetto, perché faceva proprio parte di quel sentimento che aveva la comunità cioè, a Filadelfia. In realtà queste rivolte portano poi spesso all'elezione di sindaci che di contro, eletti dal resto della cittadinanza, è da sottolineare che molto spesso la comunità nera non poteva anche andare a votare, perché non acquisiva i requisiti, quindi era in realtà quelli che poi andavano a essere eletti erano dei sindaci con un approccio fortemente repressivo e razzista, dicendo ci hanno creato un grosso problema, quindi mazzate ancora di più. E Let's Clean Up the Ghetto faceva appunto parte di questa diciamo era siccome loro parlavano continuamente di ripulire e l'approccio era quello, e loro hanno fatto appunto un pezzo che parlava di questo, cioè riprendeva lo slogan che gli giravano contro spesso la controparte razzista, che poi era poi l'amministrazione sostanzialmente e gran parte della cittadinanza bianca. E infatti, data di pubblicazione di questo storico singolo, è una data non a caso, appunto, 1977. Sì, era 77. Appunto. In tutto il mondo. Ovunque. E sentiamoci questo pezzo storico, leggendario, appunto, dei Philadelphia International All Stars, perché appunto, come già ripetuto, era le all star dell'etichetta che hanno collaborato tutti insieme per creare quello che si può definire un manifesto politico della comunità nera e in questo caso dell'etichetta della Philadelphia International. Let's clean up the ghetto. Sempre qui su Tonight Alive Radio Wombat. You know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy. There was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take your business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we gotta get together and do it for ourselves. That's the only way it's gonna be done. And you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. I said, clean it up, clean it up. I said, we're gonna clean it up. E questa appunto era Let's Clean Up the Ghetto di Philadelphia International All Star, pezzo politico dell'etichetta. E anzi, prima, visto che ce ne siamo dimenticati lungo tutta la trasmissione, prima di prendere delle notevoli bacchettate sulle mani, ricordiamo i nostri canali e i modi per mettersi in contatto con noi o con la radio. Lo so, Ginox sta chiudendo gli occhi e portando la testa verso il cielo, però lo dobbiamo fare, dobbiamo ricordare come fare a mettersi in contatto con noi, i nostri ascoltatori. Io so solo la mail. Posta Wombat @insiberia.net. Speriamo che vi ricordiate anche il nostro sito. Ah, quello lo so. Vai. Wombat.noblogs.org. Bravo. Ho finito. Non so nient'altro. Ti ricordi una frequenza? È attualmente spenta. Attualmente spenta, però. La vogliamo dire? Ricordiamo sempre la frequenza. Se un giorno ce la facciamo, 1359 KHz in onde medie, AM dell'autoradio. In modulazione di ampiezza per la zona di Firenze. Seguiteci, perché appunto stiamo ritirando su e lavorando per ritornare in onda sulla modulazione d'ampiezza, che come amo sempre ricordare, la grande cosa di questa modulazione d'ampiezza è che è tutto autocostruito. Completamente, sì. È un esperimento di autocostruzione su delle bande sostanzialmente abbandonate dall'emittenza commerciale, non ben inquadrate in nessun panorama legislativo, aperte quindi, diciamo, dal nostro punto di vista a una sperimentazione di trasmissione a piccolissimo raggio. Perché esatto, rispetto alla dimensione che hanno le trasmissioni in onde medie, che prima erano appunto diciamo monopolio soltanto statale, sostanzialmente solo della RAI, che però copriva l'intero territorio nazionale e oltre, perché le trasmissioni in onde medie sono state pensate per andare negli altri, cioè coprire anche mezzo mondo sostanzialmente. Certo. Noi riutilizziamo queste bande rimaste completamente vuote, comunque già prima completamente sottoutilizzate, per una trasmissione dalla potenza piuttosto ridicola, che ha l'obiettivo di coprire soltanto un raggio piccolino, perché questo è il nostro esperimento, cioè non vogliamo friggere i piccioni sostanzialmente, esatto. Non facciamo inquinamento. Quindi elettromagnetico. Io amo sempre ricordare appunto è tutto talmente piccolo frequenza, perché è come se steste assistendo ad un esperimento in diretta. Quasi, perché in realtà è tutto da scoprire, è tutto da autocostruito, creare, da creare, da progettare. Come molte cose si rompe, e in questo caso esatto, si è rotto, a rimetterlo su ci vogliono magari mesi. È un conto è dire no, allora andiamo, si va in FM, prendi, compri modulatori, compri antenna, un sacco compri di più che altro la frequenza, un sacco di soldi per prendere la frequenza. Ah, guarda bellino, si sente da tutte le parti. E invece questo è proprio un esperimento, direi che molto grande, perché comprende un sacco di ambiti diversi all'interno, sì, di questo esperimento. Altro anche nel panorama che sta prendendo l'attuale, diciamo, mainstream FM commerciale, che è quello di andare verso il digitale. Sostanzialmente il nostro è un esperimento quasi vintage, ma che per noi dovrebbe essere anche un'imbeccata per dare un indirizzo a come secondo noi potrebbero essere utilizzate quelle bande, che comunque sono ormai dedicate al broadcasting. Sono tipo 900 canali usati da nessuno, potrebbero essere una spinta per una cosa che l'Italia non ha mai fatto, che è sostanzialmente spingere le piccole emittenti di quartiere, le emittenti comunitarie, gli stessi radioamatori. Esatto. Che secondo noi è abbastanza interessante, perché a parte la tipologia tipica del radioamatore italiano, che spesso è più interessato all'ambito tecnico che non all'ambito così, però potrebbe essere invece uno sbocco proprio per riuscire a canalizzare, diciamo, anche un sapere tecnico e dargli uno spunto anche poi creativo, cioè certo. Dare un modo per fare delle radio di cui ognuno poi gestisce un palinsesto anche minimo, così per chi ha la capacità per svilupparsi questa roba. Infatti, non pensiamo che questa cosa possa avere in realtà un riscontro dal punto di vista di un'amministrazione, soprattutto italiana, e mi sembra che il governo ora ci abbia tutt'altre cose a cui pensare però, diciamo, già ci pensa di merda, diciamo, e quindi non penso che preferirei pure se non se ne occupassero di questa, perché sicuramente fanno solo peggio di come già è lo schifo che è, e quindi appunto, è meglio se non fanno niente secondo me, lasciano tutto, stanno come lì e pace. Però appunto mi piaceva sempre ricordare di questo esperimento, perché è una cosa che ritengo molto importante e molto bella, anche se uno magari la può ritenere obsoleta, ma ha... Vintage. Vintage, sì. Vintage. Cioè anche però, il vinile, hanno detto, era obsoleto, invece è lì, capito, che mo è tornato... Tutto un insieme di connessioni che gravitano intorno a questo esperimento, che sono molto interessanti, sia a livello sociologico, a livello proprio ma di radio amatoriale, a livello di trasmissione, a livello di progettazione, a livello di costruzione, cioè ci sono tantissimi anni. Ho messo così, sembra una figata proprio che stiamo facendo. Ma è una figata, infatti. Appunto, ora per farti la prima ti ho fatto parlare appunto di questa cosa che secondo me è bellissima. E ora mi fai di Facebook. giusto per sviarti da quello che ci rimane ancora da dire, ovvero i nostri due indirizzi social. Non me li ricordo. Me li ricordo io. Vabbè. Comunque, vabbè, Facebook è facebook.com Radio Wombat Firenze, e Twitter, però dai, diamogli un che gli diamo? Una nota di merito a Twitter, che è twitter.com/radiowombatfi, perché quando seguiamo gli eventi in diretta via Twitter potrete seguire proprio le dirette testuali degli eventi che andiamo a trasmettere, a seguire ed approfondire, quindi non è proprio così da bambaccioni. Va bene, non è da bambaccioni. Bene, allora ritorniamo a noi e dopo questa bella parentesi sugli annessi e connessi della radio andrei al prossimo pezzo della Philadelphia International. Dopo Let's Clean Up the Ghetto, un pezzo più leggero, anche se dell'anno prima. Ammorbidiamo, quasi disco, siamo quasi in epoca disco, e questi sono gli Instant Funk, che hanno pubblicato solamente un album per Philadelphia International, per poi andare a trasferirsi, diciamo, in un'etichetta che io adoro e definirei abbastanza limitrofa con la Philadelphia International, ed è una delle, secondo me, più importanti etichette disco e disco funk, pre-house, chiamiamola come ci pare, che è la Soul Soul Records. Però appunto gli Instant Funk, il loro primo disco, l'hanno pubblicato appunto sull'etichetta di Philadelphia, disco del 1976, Get Down with the Philly Jump. Più Philadelphia wow. Philadelphia di così non si può. Per poi dopo passare appunto ed accasarsi, visto il loro genere musicale, alla cugina Soul Records, che è, se non sbaglio, un'etichetta di Chicago. E questi appunto sono gli Instant Funk con Philly Jump. Questi erano Instant Funk con Philly Jump. Mamma mia, quanto erano funky. Questo era proprio funky funky. Era proprio funky funky. Era proprio... Quasi funky disco, perché da, sì, lì, è vero. Da lì a poco era questo suono esploderà appieno nella... Era il periodo di contaminazione. Sì, era proprio nella terra di mezzo tra il funk e la disco. Bellissimo, infatti, sto pezzo. Siamo arrivati all'ultimo. Siamo arrivati all'ultimo pezzo di questo primo speciale. Primo, sì, perché ci manca roba ancora. Da un sacco di gruppi che questo Philly Sound ne vengono 20 di puntate. Però noi ve ne faremo al massimo 2 o 3. Sì, giusto per non tenervi a secco durante... No, ma poi è la musica estiva questa. È perfetta per l'estate. Sarà un'estate bellissima anche su Radio Wombat, e continueremo a tenervi compagnia finché riusciremo a non scioglierci tra le fughe delle mattonelle. Sì, è quasi tempo, però noi continueremo lo stesso. Nonostante per ora il freddo invernale, il caldo estivo, noi non ci frega nulla, si va avanti uguale comunque. E con questo, diciamo, ultimo album per stasera, vi volevo proporre i Jacksons. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. Che non erano nient'altro che i famosi Jackson 5 di Scuola Motown. I fratellini. Che erano i 5 fratellini Jackson di Scuola Motown, che poi a un certo punto sono presi e a metà degli anni 70 hanno cambiato etichetta discografica, e dalla Motown Records di Detroit si sono spostati a Filadelfia per accasarsi appunto alla Philadelphia International. Però appunto il passaggio da un'etichetta all'altra li ha costretti a cambiare la ragione sociale. Sì. C'è da dire che non è che si siano impegnati con la fantasia, no, il minimo tanto. Indispensabile. Esatto. Ma per essere comunque riferibili a quella, certo, cosa lì, già avevano, chiaro, successo, non è che potevano cambiare completamente. È chiaro, e ovviamente nei Jackson 5 c'era questo piccoletto con questi capelli cotonati, che era, credo, uno dei più piccoli dei fratelli Jackson, che era il Michael, che era il Michele, il Michelino, sì, che era il Michelino, che poi avrà la carriera che tutti conosciamo. E questo, ma noi ci piaceva di più prima. Ah beh, c'è tutto un altro paio di maniche, direi. E questo credo sia uno dei... Questo è proprio scritto da Michele stesso. Sono andato a controllare. Questo pezzo qua è proprio scritto da Michael Jackson. È Blues Away, appunto, dei Jacksons. Sempre su Philadelphia International, in questo caso, e sempre su Tonight Alive Summer Special Edition. The Jacksons. sì, questo era proprio Michelino, eh. Era lui, si sentiva. Già si sente. Già aveva fatto il cambio della voce. Sì, già erano subentrati gli ormoni. Non era più in falsetto come nei Jackson 5. Non era 5. Più a livello di ABC. Eh sì. Quello, il pezzo, quello delle, fatto sì. Che c'è il video con loro. Sì. La lavagna, bellissimo. Seduti sui banchi di scuola, lì c'aveva 8 anni, sì, no? Prima c'era uno scriccioletto, un tappettino, sì. Così qui è già, anche solo dalla foto si vede che già, sì. È nella fase adolescenziale, a sentire dalla voce gli ormoni stanno già facendo effetto, agivano decisamente. Oh, siamo arrivati alla fine della prima puntata. Siamo arrivati in fondo a questo speciale estivo sulla Philadelphia International. Doveva accadere, eh sì. Non è che si può andare avanti per sempre, no. Doveva accadere. Se no, che speciale era, se si andava avanti a dritto. Però avete speranza che noi se ne faccia un altro, e forse un altro ancora, e forse un altro ancora, e chi lo sa. Chi lo sa, sicuramente prima delle vacanze estive ci ritroveremo qua con un'altra puntata sull'immenso catalogo della Philadelphia International, perché appunto oggi è stato come... La punta dell'iceberg. L'assaggino. Sì, sì, è proprio la punta dell'iceberg, perché ha una discografia e una collezione di singoli di successo veramente, veramente notevole, che volendo ci potrebbe permettere ancora diverse puntate. Guardiamo se vi scocciate prima e mandate uno squadrone della morte colombiano a ucciderci, no, prima. È estate, abbiamo chiuso anche con questa canzoncina così carina. Certo, per forza. Va bene. Allora salutiamoci. Salutiamo. Buon fine settimana. Buona calura a tutti. E sì, ci risentiamo sempre. Scappate dalla città. Ascoltatevi il nostro podcast. Ascoltatevi la diretta. Ascoltatevi le dirette. Abbiamo i messo una musica veramente spiaggia. Da spiaggia, ma non da spiaggia quella banale. Capito? Sembrerete sempre quelli che in spiaggia ascoltano comunque della musica colta, certo. Commentata da praticamente dei cultori della materia. Non è vero. Volete mettere? Però ci impegniamo tanto, almeno quello riconoscete, cioè noi ce la mettiamo tutta proprio. Almeno. E allora a risentirci su queste frequenze in un giorno X, che potrebbe essere settimana prossima, o chi lo sa, comunque sempre il sabato sera. Sempre. Vogliamo ricordarlo, sia che sia Tonight Live che sia Basement Records, sarà sempre di sabato sera. Alle 10:30 sulle frequenze di Radio Wombat, e in replica, come amo ricordare sempre nei post, il giovedì alle ore 23. Yes. E adesso appunto non ci resta che salutarci e darvi appuntamento alla prossima trasmissione su Radio Wombat. Miau. Un saluto a tutti. All we hear is Radio Wombat.